La volpe, le mosche e il riccio, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Sulle piaghe, sul sangue una ferita, volpe. Sulle piaghe e sul sangue una ferita volpe, de boschi vecchia abitatrice, fuggendo si traea quel parassita, che in linguaggio volgar mosca si dice. Ed accusava col destin gli dèi che a quella fin volesser condannarla. È dura che una volpe come lei dovessero le mosche anche mangiarla. A sciami ecco si gettano, dicea, su me, che son de boschi la padrona, e Dio la coda inutilmente crea se di cacciarla adesso non son buona. È dunque questa coda inutil peso? Oh, maledica il ciel questo importuno animal che ti succhia il corpo offeso e dovrebbe succhiare un po' per uno. Rispose al malinconico lamento un nuovo personaggio, il riccio, il quale d'infilzare si offriva a cento le mosche con la punta dello strale. Poveretta, così libero te da queste bestie che non han pietà. No, no, se tu lo fai, povera me, gridò la volpe, lascia in carità. Lascia che mangi in queste che son piene, se le cacci dal corpo mio piagato, un altro sciame subito ne viene, più feroce, che ancor non ha mangiato. Aristotele aggiunse un po' di frangia a questa fiaba e disse per morale che il mondo è pien di gente che ci mangia, cortigiani, avvocati e gente tale che nel paese nostro mangia meno solo quando ciascun ha il ventre pieno. Fine della favola. La volpe, le mosche e il riccio. Questa registrazione è di dominio pubblico.